Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, Samia, atleta somala che corse alle Olimpiadi di Pechino e che morì cercando di raggiungere l'Italia. La sua storia raccontata nel romanzo Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella. Io, trafficante di esseri umani, vi racconto come funziona il business. Le testimonianze nel saggio di Giampaolo Musumeci. Come cambia il rapporto cliente-libreria. Non dirmi che hai paura, un romanzo scritto da Giuseppe Catozzella pubblicato da Feltrinelli. Vi avevo già parlato di questo romanzo parlando di quelli che sarebbero stati i libri molto probabilmente protagonisti del 2014 e devo dire che confermo che secondo me questo sarà uno dei libri di quest'anno. Un libro che mi è piaciuto molto perché secondo me lo scrittore ha avuto la capacità di fare un passo indietro come scrittore per dar voce al personaggio, alla protagonista. È un romanzo, quindi parliamo di fiction, ma racconta una storia vera. La storia di Samia, una ragazza somala, atleta, che aveva corso alle Olimpiadi di Pechino e che poi tenta di arrivare in Europa perché vuole appunto cambiare vita, vuole allenarsi, vuole diventare una vera campionessa di atletica. Le cose però purtroppo non andranno bene, lo diciamo subito perché insomma è un fatto vero e anche un fatto per alcuni noto. Giuseppe, allora tu hai deciso di raccontare questa storia vera perché un giorno, l'hai raccontato anche in altre interviste, ti trovavi in Kenya, hai sentito questa notizia di Samia Yusuf Omar e che cosa ti è scattato? Perché hai deciso di scrivere questa storia vera con la forma del romanzo e non per esempio con la forma del saggio oppure del reportage? La mattina che ho sentito, che mi sono imbattuto in questa notizia, appunto ero nel nord del Kenya e Al Jazeera, con Al Jazeera accesa, mi sono immediatamente sentito chiamato in causa. È stato come se quella mattina lo schermo televisivo stesse parlando proprio con me. Ho capito subito che avrei scritto questa storia perché mi è sembrata immediatamente un esempio lampante, un simbolo meraviglioso di che cosa un essere umano è in grado di fare per raggiungere i suoi sogni, una bellissima storia di libertà e di coraggio. E quindi ho deciso di scriverla. Hai deciso di scriverla anche utilizzando la prima persona, insomma, è Samia che racconta la sua vita, la sua storia da quando è bambina, da quando inizia a correre con il suo amico del cuore, Ali, fino a poi purtroppo l'epilogo tragico, perché Samia è morta purtroppo nel Mar Mediterraneo cercando di raggiungere l'Italia. Come hai fatto a trovare la voce di questa ragazza, così ovviamente lontana da te geograficamente, per età, per sesso, appunto è una ragazza? Perché io l'ho trovata veramente molto bella, nel senso che spesso, forse l'ho anche detto qui a Radio 24, quando ho letto il tuo libro ho avuto la sensazione che lo scrittore appunto avesse fatto un passo indietro, lasciando da parte il suo lirismo, il suo stile, così, per regalarci proprio la voce di Samia, e io è quella che ho sentito in questo libro. Quindi come hai fatto a trovare queste corde? Mi fa molto piacere quello che dici. È stata in verità la cosa più difficile di tutto il lavoro su questo libro, perché proprio come dicevi tu, diciamo, apparteniamo a due universi completamente differenti. Io e Samia sono andato per tentativi. La risposta più onesta è che davvero non so come sia riuscito a rendere la voce di Samia. Non lo so, credo sia parte della magia della scrittura. Ecco, l'altra cosa bella di questo romanzo è che c'è molto equilibrio. C'è una storia così forte, drammatica, in parte anche conosciuta perché è stato un caso di cronaca. Insomma, si poteva rischiare di andare sul sentimentale, sul patetico, sul pietismo. Invece tu hai avuto un certo controllo, anche in questo ti sei concentrato molto. Era uno dei miei obiettivi, cercare di essere il più onesto possibile e il più, diciamo, responsabile possibile. Ho conosciuto alcuni familiari di Samia e soprattutto la sorella Odan, che era tra l'altro anche sua migliore amica, sua confidente. Lo sguardo di Odan nel momento in cui ha deciso di affidarmi la storia di sua sorella mi ha convinto una volta per tutte che avrei dovuto lasciar parlare la storia il più possibile. Quindi, come dicevi tu, diciamo, tendere a eliminare il più possibile le E finzioni, gli dare abbellimenti voce, anche una retorici. voce semplice, però una voce secondo me molto, molto intensa di questa ragazza. Allora noi vediamo Samia, 8 anni, che inizia ad allenarsi, così corre per gioco ma anche per passione. E ci sono però anche i primi inghippi, nel senso che lei vive a Mogadiscio, una città in guerra, c'è una guerra civile, poi ci sono anche gli estremisti islamici, lei addirittura è costretta a correre di notte, coperta perché è una ragazza e così via. E però riesce a raggiungere il suo primo sogno, cioè quello di partecipare alle Olimpiadi di Pechino. Sì, pare incredibile, ma è così. Da sola, appunto, con l'aiuto di Ali, che è il suo migliore amico e il suo primo allenatore, arriva a Pechino. E lì c'è una scena che io non ho potuto non raccontare nel libro, in cui lei si rende conto di quanto è diversa dalle altre. Quando lei è nel corridoio insieme alle altre avversarie, stanno per entrare nello stadio. C'è uno specchio, lei si vede per la prima volta specchiata insieme alle altre. Si rende conto che non ha i muscoli al posto giusto, è tutta magrolina, è tutta secca, non ha le tutine tecniche, non ha le scarpe giuste, ha in testa ancora la fascia che suo padre aveva regalato quando aveva 10 anni, e lì si rende conto di quanto è diversa. Ci sono appunto immagini che si possono trovare anche su YouTube Su in cui YouTube, bellissime, tra l'altro. e si vede tutto questo. E lì a Pechino succede, lei arriva ultima, a 10 secondi dalla prima Veronica Campbell-Brown, che peraltro è un suo mito, e lì succede il primo miracolo. È lì che Samia è chiamata, perché metà dello stadio si alza in piedi e comincia ad Per il applaudirla. coraggio, insomma, di questa ragazzina, appunto, che non ha gli stessi mezzi delle altre, magrolina, anche forse un po' denutrita, eccetera, comunque finisce la gara perché vuole andare fino in fondo. Se volete trovare questa immagine è facilissimo, basta digitare Samia Olimpiadi di Pechino e si trovano. Poi però inizia la parte, ecco, più drammatica del romanzo, la seconda parte, ossia il viaggio chiamato con la V maiuscola, cioè il tentativo di Samia di arrivare in Europa. Questo suo viaggio dalla Somalia fino alla Libia già dura diversi mesi e qui purtroppo, come dire, ne succedono di cotte e di crude, insomma. Anche in questo caso, come hai fatto a raccontare quelle cose lì? Samia ci mette 18 mesi, dalla notte drammatica che le cambierà la vita, in cui decide di partire a piedi da Mogadiscio fino a quando raggiungerà Tripoli. Quindi 18 mesi per percorrere praticamente mezza Africa, 8.000 chilometri. Ho tracciato fedelmente tutte le tappe e i tempi del viaggio di Samia attraverso proprio i racconti di Odan, della sorella. Loro si sono scambiate una corrispondenza fittissima per tutta la vita, in tutti i momenti in cui sono state separate. Odan conserva ancora le password del Facebook di Samia, e ogni volta che Samia raggiungeva un posto durante il suo viaggio in cui c'era una connessione internet, loro si scambiavano una corrispondenza fittissima. Quindi, grazie a Odan, siamo appunto entrati là dentro e abbiamo ripercorso tutta la loro corrispondenza. E in questo modo ho potuto tracciare perfettamente le tempistiche e i luoghi e, E proprio diciamo, che del cosa viaggio. le succedeva, perché Sì. insomma tu descrivi anche in modo controllato, però insomma sono fatti molto drammatici, molto cruenti il viaggio, questa gente che viene stipata tutta insieme su questi carri bestiame, verrebbe proprio da dire, chi cade dal carro quando si attraversa il deserto, il Sahara, cioè il camion non si ferma e rimane lì a morire, vengono poi stipati in delle specie di prigioni dove stanno per mesi. Insomma, quanto è stato difficile per te narrare questa parte, insomma, piuttosto dolorosa, che è purtroppo oggetto di cronaca quasi quotidiano? Molto, devo dire, è stato doloroso, tra l'altro. Per cercare di raccontarlo appunto in maniera, come dire, convincente, mi sono fatto raccontare i viaggi di molti dei ragazzi e delle ragazze che l'hanno fatto. Quindi, a parte quello della sorella Oda, che l'ha fatto a sua volta, adesso vive in Finlandia, ma anche quello di molti altri ragazzi e ragazze. Queste chiacchierate in realtà sono state molto dolorose, perché per loro ricordare il viaggio è la cosa più difficile in assoluto. Loro questo viaggio non l'hanno ancora terminato, nonostante siano arrivati. È troppo presente nelle loro vite e per loro è molto doloroso. E per me Come dire, già appunto ascoltare questi racconti e poi riviverlo attraverso semplicemente la scrittura è stato altrettanto doloroso. E devo dire, anche leggerlo non è faticoso, però insomma è sicuramente intenso, perché purtroppo di notizie del genere ne leggiamo spesso anche sui giornali dei trafficanti di uomini, però leggerlo in un romanzo con il punto di vista, seppur verosimile, di chi l'ha vissuto fa un effetto piuttosto potente. Uno dei personaggi bellissimi, secondo me, di questo romanzo, che poi è una persona in realtà, una persona vera, è il papà di Samia e della sorella Odana, poi ci sono altri fratelli, perché questo è un uomo che forse vive in un paese islamico, eccetera, è un uomo che dice alle sue figlie: dovete andare fino in fondo, fare quello che volete. Gli estremisti islamici dicono di mettervi il velo, voi dovete vivere la vostra vita. Che cosa ha rappresentato questo padre per Samia? Il personaggio del padre mi ha folgorato fin dall'inizio, Abe Yusuf. È lui che ha, come dire, infuso dentro Samia il suo carattere così libero, così coraggioso, così da guerriera, così come la chiama proprio lui. Il padre è colui che è la persona che appunto dice a Samia e a Odan che possono inseguire il loro sogno in un paese in cui tutto si può fare tranne che inseguire i propri sogni. Una corre, l'altra canta, Odan canta. È lui che dà loro la forza. C'è un'altra scena che di nuovo non ho potuto non riportare nel libro, in cui la madre, dopo la morte del padre, il padre morirà. Quando Samia, nonostante tutto, continua a correre, a partecipare alle gare, a vincere, a un certo punto la prende una sera e le dice: ma da chi hai preso tu? E lei dice Oyo, che vuol dire mamma, ho preso da Abe, ho preso da papà. Odan ti ha raccontato, insomma, a fatica naturalmente, la storia della sorella, ti ha fatto leggere le mail, le lettere, ci sono anche un paio di foto nel tuo romanzo. Lei non ha avuto ancora modo di leggere questo libro. No, perché lei parla solo somalo, mastica pochissimo inglese e spero che ci sia la possibilità, insomma, di far arrivare questo romanzo nella sua lingua. In somalo c'è forse un progetto guidato da Hijab Ashego che sta pensando di poter Che è una tradurre. scrittrice C'è somala, una appunto. brevissima scrittrice italo-somala che sta pensando di far tradurre questo romanzo da una casa editrice di là. Sarebbe meraviglioso perché sarebbe come appunto riportare Samia non solo nella sua famiglia, ma nel suo paese. Grazie a Giuseppe Catozzella, autore di Non dirmi chi hai paura, pubblicato da Feltrinelli. Ve l'ho detto, un libro che io ho amato molto perché mi ha cambiato un po' lo sguardo nei confronti di alcune cose che a volte così ci sfiorano durante la nostra vita quotidiana. Le leggiamo sui giornali, ma poi così giriamo la testa dall'altra parte. Un libro intenso, un libro che vi consiglio di leggere. Non dirmi chi hai paura, Giuseppe Catozzella, Feltrinelli. E se Giuseppe Catozzella ci ha raccontato la storia di Samia attraverso un romanzo, ora parliamo di un saggio, Confessione di un trafficante di uomini, scritto da Giampaolo Musumeci con Andrea Di Nicola, pubblicato da Chiare Lettere. Ed è un saggio che guarda, analizza il traffico di esseri umani dal punto di vista del trafficante, che vedremo non è solo lo scafista, ma c'è una lunga, catena di persone dietro questo traffico di migranti. È sicuramente un punto di vista originale, perché credo che fino ad ora, insomma, non ci siano stati libri che abbiano indagato attraverso proprio interviste ai trafficanti di uomini che cosa c'è dietro questo business. Giampaolo Musumeci, tu tra l'altro sei una voce nota di Radio 24, insomma, perché hai collaborato spesso, con noi. Perché hai deciso di scrivere, questo saggio dal punto di vista dello scafista? Mancava questo pezzetto, mancava un tassello nel grande racconto di uno dei grandi fenomeni del nostro tempo, queste grandi migrazioni di massa a cui assistiamo, dagli esiti spesso tragici, basti pensare anche agli ultimi mesi a Lampedusa. Mancava un pezzo della storia, perché sappiamo il barcone da dove parte, sappiamo le difficoltà che incontra. Sappiamo purtroppo le storie dei migranti, anche in romanzi, ma anche in testimonianze di cronaca, e invece nessuno aveva fino adesso analizzato in maniera, insomma, precisa la vita e l'aspetto dei trafficanti. Tu e Andrea Di Nicola, con chi avete parlato per ricostruire appunto questa storia? Abbiamo incontrato diverse figure criminali, sia in Italia che ai confini dell'Italia. Abbiamo dovuto viaggiare tra Grecia e Turchia, Tunisia, Egitto e poi appunto anche in Italia, nel nostro paese, e in Europa, tra Francia e Inghilterra. Abbiamo incontrato scafisti, quindi l'ultimo anello di questa lunga catena, e abbiamo incontrato organizzatori, cioè persone di calibro più grosso, di quella che noi abbiamo chiamato la più grande e spietata agenzia criminale di viaggi del mondo. Gli organizzatori, i grossi trafficanti di uomini, sono quelli che garantiscono ai loro clienti, i migranti, l'intero viaggio a un pacchetto, come se fosse veramente un'agenzia di viaggi. C'è il pacchetto lì, inclusive tu parti da, sì, poi da Peshawar. Durante il viaggio ti chiedono altri soldi perché certo. Magari ti vendono, fra virgolette, ad altri trafficanti, quindi insomma... E sono coloro che riescono a gestire più o meno tutta la catena, tutti questi paesi che i migranti dovranno attraversare. E questi organizzatori, questi grossi boss dello smuggling, del traffico di esseri umani, sono dei businessmen. Noi abbiamo cercato di analizzarli da questo punto di vista. Sono dei veri e propri imprenditori che devono organizzare il lavoro, dividere il lavoro e far muovere una montagna di soldi, si stima dai 3 ai 10 miliardi di dollari l'anno, che è il business più grande al mondo dopo la droga. Quindi non è errato chiamarli imprenditori e businessmen. Che cosa ti ha colpito di più dei loro racconti? Voi ne avete incontrati diversi, abbiamo detto non solo di scafisti, cioè l'ultimo anello della catena, ma proprio dei trafficanti, di chi al vertice di questa catena comanda, organizza e purtroppo ci lucra tantissimo su questi viaggi. Sono persone estremamente intelligenti, scaltre, hanno delle caratteristiche in comune. La prima sono animali sociali, cioè sanno relazionarsi in maniera incredibilmente facile con le persone. Secondo, nascono nel posto giusto nel momento giusto. Se tu in questo momento sei in Turchia, sei un turco, siccome la rotta turca è molto battuta, hai più possibilità di diventare un trafficante di uomini. Hanno avuto molto spesso nella loro educazione sentimentale criminale un mentore, cioè qualcuno che gli ha fatto da esempio. È nel caso ad esempio di Eldouli, il trafficante egiziano, l'internazionale, così si fa chiamare, che ha avuto un mentore d'eccezione perché era un trafficante di uomini iracheno che faceva scappare i disertori dell'esercito durante la guerra del Golfo. E lì lui ci racconta, ha avuto una rivelazione, ha scoperto che le frontiere si potevano passare illegalmente e in barba alle leggi, ai muri e alle reti. E lui dice, è stata per me una scoperta, ho detto siamo liberi, l'uomo è libero, può passare tutti i confini. Certo, lui l'ha raccontato in questo modo, c'è anche un processo di autoassoluzione del criminale, certo. Del trafficante, non ti dirà mai io lucro sulla pelle degli altri, ti dirà, come ci ha detto un altro, io aiuto a realizzare i sogni. Ecco, prima tu citavi le leggi, i muri e cose del genere. Anche in Italia si discute tantissimo sulla possibilità di respingimenti, respingere, non respingere, accogliere, non accogliere. Parlando proprio direttamente con chi organizza questi viaggi, tu che idea ti sei fatto? Effettivamente servono i respingimenti? Servono le leggi nei paesi da dove partono questi barconi? Oppure c'è una terza via? Io e Andrea Di Nicola, scrivendo questo libro, ci abbiamo messo 2 anni e facendo tesoro di anni di esperienza comune, nel senso da una parte il criminologo, analista, dall'altra il giornalista. Di sicuro abbiamo scoperto una cosa, che più l'Europa si chiude, più Frontex pattuglia, più si chiudono le rotte migratorie, più il business dei trafficanti diventa redditizio. Perché i migranti comunque vogliono arrivare in Europa, non è possibile fermare questo grande fenomeno di massa, semplicemente la rotta diventa più lunga, cioè se io non passo più per Lampedusa ma devo fare tutta la rotta balcanica a piedi, vuol dire utilizzare più trafficanti, più smuggler, più nodi, più frontiere da passare, il prezzo sale, il rischio aumenta e quindi si va ad alimentare questo business criminale. Non sappiamo qual è la soluzione. Di certo, così facendo, gli smuggler ci guadagnano di più perché alzano i prezzi di questa agenzia di viaggi. Quanto costa in media un viaggio verso l'Europa, partendo per esempio dall'Africa? Le tariffe, noi abbiamo, guardando sia analisi dell'Ufficio Anticrimine dell'ONU che di vari organismi, ma confrontandole soprattutto con la nostra esperienza di anni sul campo, abbiamo fatto un vero e proprio tariffario. Sono molto flessibili, dipendono dalle rotte e dalle politiche di chiusura dei paesi, per cui se a un certo punto una rotta è più difficile costerà molto di più. Si va dalle poche migliaia di euro fino ai 10-15 mila euro e i viaggi possono durare mesi e mesi, come raccontava il libro assolutamente di Catozzella che tu hai citato a inizio puntata. Noi abbiamo incontrato migranti che erano partiti dall'India e per arrivare in Spagna sono passati dall'Etiopia, poi dal Mali, Algeria, Marocco e ci avevano messo 2 anni. 2 anni pagando decine e decine di migliaia di euro, fra l'altro molto spesso a più tranche. Per cui diciamo che si passa da un minimo, facciamo così, un minimo di 500 euro per un singolo passaggio, cioè quello che fa lo scafista o il passeur, poniamo tra Grecia e Turchia, a un massimo di 20.000 euro che può essere la tariffa per andare dalla Cina agli Stati Uniti. Il libro che vi consiglio di leggere dunque è Confessioni di un trafficante di uomini, scritto da Giampaolo Musumeci, che ringrazio insieme ad Andrea Di Nicola. Sicuramente un aspetto poco noto del traffico di esseri umani che vale la pena veramente di conoscere. Piccolo focus dedicato ai librai. Nei giorni scorsi a Venezia si è tenuto il corso di perfezionamento della scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri, un'occasione in cui si affrontano vari aspetti del mercato editoriale. In particolare, qual è il rapporto ideale fra lettore e libreria e come sta cambiando? Ce ne parla Michela Addis, docente di marketing all'Università Bocconi di Milano, che ha affrontato appunto questo tema all'incontro di Venezia. Le librerie devono immaginare di puntare come obiettivo ad avere un cliente leale e non soltanto un cliente soddisfatto. Siamo stati abituati a pensare che la soddisfazione fosse il punto di riferimento delle pratiche di approccio al mercato da parte delle aziende. Oggi sappiamo che avere un cliente soddisfatto non basta più. E in che modo si può rendere il cliente leale? Insomma, si deve creare in qualche modo un legame fra il libraio e il lettore? Ho usato la parola giusta, il concetto appunto è il legame, la relazione nel corso del tempo, mentre la soddisfazione guarda soltanto all'evento statico, nel momento in cui avviene, quindi alla singola interazione. Puntare al cliente leale significa avere attenzione alla cura della relazione, quindi di quello che succede nel corso del tempo. Per questo motivo non bisogna trascurare la soddisfazione, ma cioè le librerie dovrebbero lavorare sui servizi offerti al cliente in libreria e contemporaneamente cercare di tenere sotto controllo quello che fanno gli altri concorrenti e quindi puntare a essere sull'innovazione, sulla frontiera dell'innovazione, sempre, indipendentemente dalle aspettative del cliente, e quindi continuare a studiare quello che fanno gli altri per cercare di essere sempre aggiornati. E poi come terza cosa, devono avere attenzione all'equità percepita da parte del cliente. Cioè, sempre più spesso oggi, tipicamente questo lo fa un cliente che è educato, dove educato intendo non a livello scolastico, ma intendo l'educazione e il suo livello di conoscenza della categoria di prodotto, e quindi in questo caso dei libri e del rapporto con le librerie, a sapere che cosa può aspettarsi da una libreria. E quindi cioè deve, il cliente oggi chiede di essere trattato come cliente speciale. Ma non perché è uno dei tanti, appunto, ma perché è un cliente che ha sviluppato nel corso del tempo una relazione solida con la libreria. Prima di chiudere, vi segnalo che in libreria ha debuttato una nuova collana di Fabri Editore dedicata all'avventura e all'estremo. Si chiama Wild. Raccoglie storie vere scritte con stile narrativo. I primi titoli, Sinai, in cui il teologo Vito Mancuso e l'alpinista Meroi raccontano la montagna sacra per eccellenza, il Sinai appunto. E poi Lasciateli giocare con gli orsi di Peter Brown Hofmeister, un libro per far conoscere appunto ai bambini la natura. Ed è veramente tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che, come sempre, ci trovate su Twitter come Ale Teddina, su Facebook e su www.radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.